Thank you so much for your welcome. Grazie mille per il vostro benvenuto. It is such a privilege for me to be with you. Ed è un così grande privilegio per me essere qui con voi. It's even better because you gave me the best interpreter in the world. Ed è anche ancora più bello perché ho una brava interprete. You may not recognize this accent. Forse non riconoscete bene questo accento. I come from a place called Belfast in the north of Ireland. Io vengo dal nord dell'Irlanda, da un paese, da una città che si chiama Belfast. I have got four daughters. E ho quattro figlie. I have got eight grandchildren. E ho otto nipoti. Seven girls and one little boy. Sette bambine e un bambino. So if you met my husband, you would see that he has no hair. Quindi se conosceste mio marito, notereste che lui è senza capelli. My husband and I planted a church in Belfast over 30 years ago. Circa 30 anni fa, con mio marito abbiamo fondato una chiesa a Belfast. That is the church we're still a part of. Ed è la chiesa della quale ancora facciamo parte. We passed on to a younger couple several years ago. E qualche mese fa una coppia di giovani ministri sono diventati pastori di questa chiesa. And now we get to do all the fun stuff like this. E adesso possiamo solo occuparci delle cose più divertenti come questa. It is fantastic to be in Italy. È meraviglioso essere qui in Italia. I decided over this weekend that the Italians are going to be the cooks in heaven. E ho deciso, ho capito che gli italiani saranno i cuochi del paradiso. Definitely not the Irish. Certamente non gli irlandesi. You would just be eating potatoes all day long. Perché altrimenti mangeremo per l'eternità solo patate. But thank you so much for having me. Thank you, Pastor Mirko, for trusting me with your microphone and your stage. Ma grazie mille per avermi permesso di essere qui. Grazie al Pastore Mirko per la fiducia che mi ha dato nel farmi predicare alla Chiesa. Tonight I want to talk to you about being a giant slayer. Questa sera voglio parlare ad ognuno di voi dell'essere degli assassini di giganti. I think we all love a hero. Noi tutti amiamo gli eroi. We love to hear the stories of the little person who defeats the giant. Ci piace tanto ascoltare quelle storie nelle quali il piccolino vince il gigante. I don't know if you know the film The Lord of the Rings. Non so se conoscete il film Il Signore degli Anelli. I love that film because little Frodo the Hobbit defeats the great enemy. E mi piace tantissimo quel film perché vediamo che c'è il piccolo Hobbit Frodo che sconfigge questo grande terribile nemico. I think we even like stories where a little person takes on multinational companies and gets great victory. Ci piacciono quelle storie che hanno come protagoniste queste piccole persone, magari che sono povere, prendono e diventano amministratori delegati di grandi aziende. And of course, in our culture, even when people don't know the Bible, they will describe that as a David and Goliath story. E nella nostra cultura anche quelle persone che magari non conoscono bene la Bibbia conoscono la storia famosa di Davide e Golia. It's a very well-known story, but I want us to set the scene tonight. È una storia molto conosciuta e questa sera voglio descrivere un po' il contesto di questa storia. So we're going to read just the first few verses from Samuel chapter 17. Quindi leggeremo i primi versi da Primo Samuele al capitolo 17. I Filistei raccolsero i loro eserciti per combattere e si radunarono a Soco, che appartiene a Giuda, e si accamparono tra Soco e Azeca, a Efes Damim. Saul e gli uomini di Israele si radunarono anch'essi, si accamparono nella valle dei Terebinti e si schierarono in battaglia contro i Filistei. I Filistei stavano sul monte da una parte e Israele stava sul monte dall'altra. In mezzo a loro c'era la valle. Dall'accampamento dei Filistei uscì un campione di nome Golia, di Gat, alto 6 cubiti e 1 palmo. Aveva in testa un elmo di bronzo, indossava una corazza a squame che pesava 5.000 sicli di bronzo, portava delle gambiere di bronzo e un giavellotto di bronzo dietro le spalle. L'asta della sua lancia era robusta, come un subbio di tessitore. La punta della lancia pesava 600 sicli di ferro e colui che portava il suo scudo lo precedeva. Egli dunque si fermò e, rivolto alle schiere di Israele, gridò: «Perché uscite a schierarvi in battaglia? Non sono io il Filisteo e voi i servi di Saul? Scegliete uno dei vostri e scenda contro di me. Se egli potrà lottare con me e uccidermi, noi saremo vostri servi. Ma se io sarò vincitore e lo ucciderò, voi sarete nostri sudditi e ci servirete». Il Filisteo aggiunge: «Io lancio oggi questa sfida a disonore delle schiere di Israele. Datemi un uomo e ci batteremo». Quando Saul e tutto Israele udirono queste parole del Filisteo, rimasero sgomenti ed ebbero gran paura. So, when we're talking about giants that we are facing, what do we mean? Quindi, quando parliamo dei giganti che noi affrontiamo, di che cosa in realtà stiamo parlando? Well, it's anything that is intimidating you. Di quelle cose che ci fanno paura. Something standing between you and the victorious, abundant life that God has for you. Di quelle cose che stanno in mezzo tra noi e la vita abbondante e vittoriosa che Dio ha per noi. Something preventing you from moving forward. Qualcosa che ci ostacola dall'avanzare. When we talk about intimidation, it means that we would be discouraged. Quando parliamo di un qualcosa che ci intimidisce, parliamo di qualcosa che ci porta allo scoraggiamento. It actually means to silence by threatening. Qualcosa che ci fa stare zitti perché ci minaccia. And it makes us afraid. E quindi ci incute paura. Goliath challenged Israel, it says, day after day. Qui vediamo che Golia lanciava questa sfida agli israeliti giorno dopo giorno. He didn't give up. Lui non si è arreso. We have an enemy. Noi abbiamo un nemico. And our enemy Satan is equally relentless. E il nostro nemico Satana ugualmente non si arrende. He will challenge you day after day. Lui ci sfida giorno dopo giorno. So what was it about David that made him a giant slayer? Quindi che cosa ha reso Davide una persona che ha ucciso il gigante? Well, I think the very first thing is that he knew his God. Io credo che la prima cosa che caratterizzava Davide è che lui conosceva il suo Dio. If we are going to be giant slayers, then we need to know who our God is. Per uccidere i nostri giganti, noi abbiamo bisogno di sapere, di conoscere il nostro Dio. David had a living, worshiping relationship with God. Davide viveva una relazione personale, profonda, di adorazione con Dio. He believed that God was everything that he said he was. Lui credeva che Dio era esattamente tutto quello che lui diceva di essere. That he was in control, that he was all powerful. Che era onnipotente, che era aveva il controllo di tutto. And he was always true to his promises. E che sempre portava a compimento le sue promesse. It is so important that we get to know God. Ed è così importante che noi conosciamo il nostro Dio. Not just up here in our minds. E non solo a livello mentale. But we know him in our hearts. Ma è importante che lo conosciamo con il nostro cuore. He invites us through Jesus into a close personal friendship with him. Lui attraverso Gesù ci invita a vivere un'amicizia profonda. Jesus actually said to his disciples, "The Father and I will come and make our home with you." E Gesù dice ai suoi discepoli, "Io e mio Padre abiteremo con voi." His desire is that we would know him. Il suo desiderio è che noi lo possiamo conoscere. Satan always tries to make your view of God really small. Il Satana cerca sempre di rendere molto molto piccola la nostra visione di Dio. He tries to reduce God in your sight. Cerca di rendere piccolo Dio davanti ai nostri occhi. Actually, it wasn't until I really encountered the Holy Spirit in my life that I started to understand how great God was. In realtà, è stato grazie allo Spirito Santo nella mia vita che ho potuto capire quanto grande è Dio. I was a Christian. Ero credente. But I came from a very conservative church background. Ma sono cresciuta e vengo da una chiesa molto molto tradizionale in Irlanda. We believed in the Holy Spirit, but we never talked about him. Noi credevamo nello Spirito Santo, ma non parlavamo mai dello Spirito Santo. We certainly didn't believe that the gifts of the Holy Spirit were available to us today. Certamente in chiesa non si credeva che i doni dello Spirito Santo fossero attivi oggi. But when the Holy Spirit rode into my life unexpectedly, I'd have to say. Ma quando lo Spirito Santo si è messo all'opera nella mia vita, cosa che neanche mi aspettavo, it changed my whole view of the God that I was in relationship with. Questo ha cambiato totalmente l'idea e la visione che io avevo di Dio. Because before, when I heard stories about God healing people or doing miracles, perché prima quando ascoltavo delle storie che Dio guariva le persone, I always thought, no, I don't think God would do that. God wouldn't do that. Pensavo sempre tra me e me, no, Dio certamente no, non farebbe questo. And he definitely would not do that. E certamente no, questo proprio non lo farebbe. And mostly the God that I was in relationship with was pretty powerless. He was powerless. certamente il Dio che io conoscevo prima che lo Spirito Santo fosse in me era un Dio non così tanto potente, senza alcun potere. I'm laughing because when I speak English, we run our syllables together. Sto sorridendo perché quando io parlo inglese le nostre sillabe, insomma, sono un po'. Ci mangiamo un po' le parole, fatemi dire così. English people say power. In inglese sì, la parola potere si dice power. We say par. In Irlanda invece si pronuncia così. So my God was pretty powerless. E quindi il Dio che conoscevo era effettivamente senza alcun potere. But suddenly the Holy Spirit opened my eyes to see how magnificent God was. Ma tutto ad un tratto lo Spirito Santo ha aperto i miei occhi. How amazing he was. E mi sono resa conto di quanto meraviglioso fosse Dio. That he was all powerful. Che lui davvero è onnipotente. And that changed everything. E quella consapevolezza ha cambiato tutto. I love the verse in Daniel that says this. Mi piace il verso in Daniele che dice questo. Those who know their God will be strong and do exploits. Chi conosce, coloro che conoscono Dio saranno forti e vincitori. God is calling every single one of us to be giant slayers. Dio chiama ognuno di noi ad essere delle persone che uccidono i propri giganti. To bring down the giants in our own lives. E sconfiggere i giganti nella nostra vita. But then he's raising up a generation of those who will bring down giants for those who don't have a voice for themselves. Ma allo stesso tempo lui sta formando una generazione che sconfigge i giganti non solo per se stessa ma anche per coloro che non hanno voce. I believe that it's the call of God on the life of this church. Io credo che questa sia la chiamata di Dio per questa chiesa. That God is going to raise up amongst you ministries who will take on situations and things that need someone to stand up and speak for justice and speak for righteousness. Che in questa chiesa Dio sta formando una generazione che darà voce a situazioni e porterà giustizia dove non c'è. I was reading in Isaiah this afternoon. Stavo leggendo Isaia questo pomeriggio. It talks about setting captives free. E parlava di liberare i prigionieri. It talks about liberating those who are oppressed. Di portare a libertà coloro che sono oppressi. At the heart of this church there is a warrior spirit. E nel cuore di questa chiesa c'è uno spirito di persone che combattono. And God is going to use you to bring down giants in this community. E Dio si userà di noi per sconfiggere i giganti nella nostra società. And not just in this community, but in a much wider region. E non solo nella società locale, ma in tutta la società che ci circonda. But those who know their God will be strong and do exploits. Ma coloro che conoscono Dio saranno forti e vincenti. Sometimes when I'm speaking, I just feel like the Holy Spirit gives me a little whisper. Molte volte mentre sto predicando proprio sento che lo Spirito Santo mi sussurra qualcosa. To give a particular word of encouragement to someone here. Spingendomi a dare una parola specifica a qualcuno qui presente. God doesn't have any favorites. È chiaro che Dio non ha nessun preferito. But sometimes he just knows that someone needs a word of encouragement. Ma alcune volte lui semplicemente sa che alcuni di noi hanno bisogno di una parola di incoraggiamento in modo specifico. So there's a young woman sitting in the second row, and I think you've a denim jacket on. Allora, quindi c'è Marika. And I really believe that the Lord wants you to take hold of this verse. Those who know their God will be strong and do exploits. E io credo che proprio questo verso in Daniele che abbiamo citato, che coloro che conoscono Dio saranno forti, è proprio in modo specifico per te. He is inviting you to be intentional about pressing in to know him. Lui ti sta invitando ad essere proprio intenzionale e a sforzarti sempre di più di conoscere Dio. And I can't quite see, but I think you're quite small in stature. Non posso vedere molto bene, ma credo che tu sia un po' minuta. But in Ireland we say good things come in small packages. Ma in Irlanda come in Italia abbiamo questo detto che nella botte piccola c'è il buon vino. And I have made you to be a fierce package. E Dio ti ha creato per essere quel buon vino. The things that the Lord wants to do through you will surprise you. Che le cose che Dio farà attraverso di te ti sorprenderanno. I think they will surprise the people who know you. E sorprenderanno anche chi ti conosce. Because you are going to do exploits for the Lord. Perché tu farai delle grandi conquiste per Dio. I feel he's saying put on your seatbelt. E quindi allacciati la cintura. Because we're going on a fast ride together. Perché Dio ti dice, perché stiamo proprio in viaggio insieme per un viaggio molto molto speciale. But the key is that you press in to know him. Ma la chiave di tutto questo è che tu ti sforzi nel conoscere chi è Dio. Giant slayers know their God. Coloro che uccidono i propri giganti sono coloro che conoscono il proprio Dio. But then giant slayers have proved God's faithfulness. Coloro che uccidono i giganti sono anche coloro che hanno sperimentato la fedeltà di Dio. David had personally experienced God's power and presence in his life. Lo stesso Davide aveva proprio sperimentato la potenza e la presenza di Dio nella sua vita. He was a shepherd, and when his sheep were attacked, lui sappiamo era un pastore e quando le pecore erano sotto attacco, God gave them the strength to defend the sheep. Dio ha dato a Davide la forza per difendere le sue pecore. He said it was God who helped me kill the lion and kill the bear. Lui ha detto è Dio che mi ha aiutato a uccidere il leone e a uccidere l'orso. And so he was absolutely confident that this giant was nothing to God. E quindi lui era proprio sicuro del fatto che questo gigante per Dio non era nulla. He had proved that God was faithful. Perché nella sua vita aveva sperimentato la fedeltà di Dio. And you know, sometimes when we go through the difficult things in our lives, we struggle. E sapete, tante volte quando affrontiamo delle difficoltà nella nostra vita, noi ci troviamo effettivamente in difficoltà, sì. We often ask God, why are you letting me experience this? E spesso chiediamo a Dio, ma perché stai permettendo tutto questo? And God wants us to develop spiritual muscles. E Dio quello che sta facendo è che sta facendo sì che i nostri muscoli spirituali diventino più forti, si esercitino. Sometimes he lets us go through certain things in order to train us. Molte volte lui permette che noi affrontiamo determinate cose per allenarci. And so that we will trust him. Così che noi impariamo a fidarci di lui. You see, God doesn't want our Christian lives to be like a roller coaster. Vedete, Dio non vuole che la nostra vita spirituale sia come le montagne russe. You know, sometimes we're on the mountaintop praising God. E quindi dove alcune volte siamo in cima e adoriamo Dio e lo lodiamo. And the next day we crash. E il giorno dopo andiamo giù a picchio, precipitiamo. He wants us to develop a consistency in our walk with him. Ma lui vuole sviluppare una perseveranza nel nostro cammino con Dio. So that we won't be intimidated and we won't crash under pressure. Così che quando siamo sotto pressione non ci sentiamo minacciati e non precipitiamo. A couple of years ago I was praying for one of my daughters who was going through a difficult time. Qualche anno fa stavo pregando per una delle mie figlie che stava affrontando una situazione difficile. And I was saying, Lord, please rescue her from this situation. This is so hard for her. E pregavo a Dio, ti prego Dio, liberala da questa situazione, è così difficile per lei. And I felt the Lord say to me, so do you not want her to learn some of the things that you have learned? E ho proprio sentito che lo Spirito Santo mi diceva, ma allora non vuoi che tua figlia impari ciò che anche tu hai imparato? Do you not want her to grow and depend and learn to trust me? Non vuoi che tua figlia cresca e che impari a dipendere da me e a fidarsi di me? So when God says things like that to you, you have to go, okay, God. E quindi quando Dio ti dice questo tipo di cose, devi semplicemente rispondere, ok Dio. We are all in God's training school. Noi siamo tutti nella palestra di Dio. Personally, I don't want to develop physical muscles. I'm too old for that. Personalmente, sono troppo anziana per poter sviluppare i muscoli fisici. Non mi interessa neanche. I only go to the gym so that I can eat. Io vado in palestra solo così poi posso mangiare. But I do want to keep growing my spiritual muscles. Ma certamente voglio che i miei muscoli spirituali continuino a crescere. And in order to do that, sometimes God takes us through the hard times. E affinché questo succeda, alcune volte Dio permette che noi affrontiamo delle situazioni difficili. He wants us to really trust in his faithfulness. Lui vuole che noi davvero ci fidiamo della sua fedeltà. Again, there's a young man and I can pick you out because you have a red sweater on. E c'è un giovane ragazzo con la maglia rossa. And I really believe that the Lord has you in his training school right now. Io credo che in questa stagione della tua vita tu sia proprio nella palestra di Dio. I think you have faced certain things already in your life. Certamente hai già affrontato diverse cose nella tua vita. And it hasn't been easy. E non è stato semplice. But like David, you know that God has helped you bring down the lion and the bear. Ma proprio come Davide, anche tu sai che Dio ti ha aiutato a sconfiggere il leone e l'orso. But it's only because he wants to build greater spiritual muscles in you. E lui vuole che i tuoi muscoli spirituali crescano sempre di più. Because he has got other giants for you to bring down. Perché lui ha altri giganti per te. Così che tu li possa sconfiggere. I think you are one of the generation that I was speaking about. Tu sei uno di coloro che fanno parte di quella generazione che ho descritto poc'anzi. I believe that the Lord is going to take you to situations where you will be the one who speaks for the voiceless. Credo che Dio ti porterà a vivere determinate situazioni dove tu potrai essere la voce di coloro che non hanno voce. I believe he will take you to broken people and hopeless people. E lui ti porterà davanti a persone che sono ferite e sofferenti. Especially some young men. Specialmente i ragazzi giovani. And you will be bold and strong because you'll know that God can help you bring down the giants in their lives. E tu sarai coraggioso e forte perché saprai che Dio ti ha scelto per uccidere i giganti. Can I just encourage you, when God speaks, it's really important that you pray. Posso sottolineare che quando Dio parla, ti voglio incoraggiare a pregare. Test it and make sure it is what the Lord is saying to your heart. E a mettere alla prova se quello che ho appena detto è davvero la volontà di Dio per la tua vita. But let's continue to allow the Lord to develop those spiritual muscles in us. Ma continuiamo a permettere a Dio di sviluppare i muscoli spirituali. But then giant slayers refuse to listen to the lies of the enemy. Coloro che uccidono i giganti sono coloro che si rifiutano di ascoltare le bugie del nemico. When you're facing a giant in your life, do not listen to the enemy's lies. Quando tu stai affrontando dei giganti nella tua vita, non ascoltare le bugie del nemico. He says, God isn't with you. Perché lui dice, Dio non è con te. He doesn't love you, he doesn't care. Lui non ti ama, in realtà non è per niente interessato a te. Where is he? He's abandoned you. Dov'è? Ti ha abbandonato. Refuse to listen to him. Rifiutati di ascoltare queste bugie. Even David's brother spoke against him. Anche i fratelli di Davide hanno parlato contro Davide stesso. Maybe we could read verse 28. E possiamo leggere il verso 28. 28. Eliab, suo fratello maggiore, avendo udito Davide parlare a quella gente, si accese d'ira contro di lui e disse: «Perché sei sceso qua? A chi hai lasciato quelle poche pecore nel deserto? Io conosco il tuo orgoglio e la malignità del tuo cuore. Tu sei sceso qua per vedere la battaglia». He said, you're conceited and you're wicked. Lui l'ha definito malvagio e orgoglioso. This was the David that Jesus or God said he was a man after God's own heart. Eppure Dio ha detto esattamente il contrario, che Dio era, che Davide era l'uomo secondo il cuore di Dio. You see, the enemy knows where you're most vulnerable. Sapete, il nemico conosce i punti dove noi siamo maggiormente vulnerabili. Sometimes we expect attacks to come from outside sources. The attack to come from outside. Molte volte ci aspettiamo che gli attacchi vengano da fuori. But often it comes from those who are close to us. Ma molto spesso gli attacchi vengono proprio da quelle persone che sono più vicine a noi. Because the enemy knows that that will dishearten us more than anything else. Perché il nemico sa che quella sarà la cosa che più di tutto ci scoraggerà. Refuse to listen to the lies of the enemy. Allora rifiutati di ascoltare le bugie del nemico. Ask the Holy Spirit to speak his truth into your heart. Chiedi allo Spirito Santo che lui ti dica la sua verità e la comunichi al tuo cuore. And take hold of that truth. E mantieni, fai quella verità tua. And refuse anything that the devil has said to you. E rifiuta ogni cosa che il nemico ti dice. My husband had a second cousin. Mio marito ha un procugino. And he had some learning difficulties. E questo cugino ha qualche difficoltà dell'apprendimento. But he gave his life to Jesus. Ma ha dato la sua vita a Gesù. But he always struggled and felt, maybe I didn't say it right, maybe I didn't do it right, maybe I'm not really a Christian. Ma a causa della sua difficoltà poneva sempre queste domande, forse non l'ho fatto in maniera corretta, forse non ho detto quello che dovevo dire, forse in realtà non ho accettato Gesù veramente. And he had a vivid imagination, and so at night he always felt like the devil was in the room with him. E lui ha questa immaginazione molto spiccata e vedeva spesso che il nemico era nella stessa stanza dove lui si trovava. In fact, he was convinced that he was under the bed. E lui era convinto che il nemico, il diavolo, si nascondesse sotto il letto. And he was speaking to my husband's grandfather. E quindi lui stava parlando con il nonno di mio marito. And he said, I just don't know if I'm a Christian, I just don't know if I did it right. Dicendo, ma non sono sicuro di essere veramente cristiano, non lo so se ho fatto correttamente. And grandfather said, here is the word of God. E il nonno ha detto, questa è la parola di Dio. For God so loved the world that whoever believes in him will have everlasting life. Poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque creda abbia vita eterna. And he said, put your name in. Metti il tuo nome. For God so loved Thomas. E leggi, perché Dio ha tanto amato Thomas. When Thomas believed in him, he has everlasting life. Quando Thomas ha creduto in lui ha ricevuto vita eterna. So he told Paul's grandfather the next day. E quindi lui the grandfather he told him the next day. Il nonno gli ha detto il giorno dopo. That night again he was thinking, am I Christian? Have I done it right? Thomas ha detto al nonno che quella notte di nuovo ha avuto questi pensieri, non lo so se sono credente, non lo so questo, non lo so l'altro. And he opened the Bible to John 3:16. Ma poi ha aperto la Bibbia e è andato a Giovanni 3:16. He shoved it under the bed. E ha messo la Bibbia sotto il letto. And he said, read that, devil. E ha detto, diavolo, leggi quello che c'è scritto. That's how we defeat the lies of the enemy. E questo è il modo in cui lui ha sconfitto le bugie del diavolo, del nemico. We replace it with the truth of God's word. Noi che cosa facciamo? Le sostituiamo con la verità della parola di Dio. And the fourth thing about a giant slayer. E la quarta cosa che caratterizza colui che uccide i propri giganti. A giant slayer knows the difference between the facts and the truth. È che chi uccide i propri giganti è colui che conosce la differenza tra i fatti e la verità. You see, faith isn't about being naive. Sapete, la fede non ha a che vedere con l'essere naive. It looks at the facts. Ma guarda i fatti. But it chooses to believe God. Ma sceglie di credere a Dio. And sometimes that's what we need to do. E molte volte è proprio questo che abbiamo bisogno di fare. The fact was, Goliath was a giant. Il fatto era che Golia era un gigante. And he called the army of Israel servants of Saul. E lui ha chiamato il popolo di Israele servi di Saul. And they were servants of Saul. E loro tali erano. It was a fact. È vero, era un fatto. But David declared the truth. Ma Davide ha dichiarato la verità. He said, "We are the armies of the living God." Dicendo che noi siamo l'esercito del Dio vivente. So often we simply look at the facts. Quindi spesso noi semplicemente ci fermiamo a vedere i fatti. But God wants us to embrace His truth. Ma Dio vuole e ci chiama ad abbracciare la sua verità. About 8 years ago, My husband and I were in Canada. Circa 8 anni fa io con mio marito eravamo in Canada. He very foolishly agreed to go on a 4x4. E lui si è ci siamo messi d'accordo di fare un giro su una Jeep 4x4. He'd never ridden anything like that in his life before. Lui non aveva mai guidato niente del genere prima d'allora. I think he still wanted to be a teenager or something. Probabilmente ancora voleva fare qualcosa di adolescenziale. Unfortunately, he came off the whatever it was, the 4x4. He came off. E guidando lui praticamente è balzato fuori da questa 4x4. It went one way, he went the other. La macchina è andata da un lato e lui dall'altro. And it ended up that when we got to the hospital, they discovered that he'd broken his neck. E quando siamo andati in ospedale, loro hanno scoperto che aveva praticamente si era rotto il collo. They did x-rays and they said they were going to have to operate. Hanno fatto le radiografie e semplicemente c'era bisogno di operare. It was going to be quite a serious operation. E si trattava di un'operazione molto molto seria. And they said he wouldn't be able to leave Canada for 2 months. E ci avevano detto che non saremmo stati, non sarebbe stato per noi possibile lasciare il Canada per 2 mesi. I did say I loved him, but I was going home. E gli ho detto che lo amavo, ma io me ne sarei tornata a casa. No, I didn't really. No, non è vero, non è vero. But on the morning when we heard how serious it was. E il giorno dopo, quando insomma abbiamo ascoltato di quanto seria fosse la situazione, and how close he had come to being in a wheelchair, e quanto vicino si era trovato a rimanere paralizzato su una sedia a rotelle, Paul had reached out, there was a Bible on the hospital table, e c'era una Bibbia sul comodino. And he read this, the verse in Corinthians that says, "These things happen to us so that we will not rely on ourselves." E Paul ha preso la Bibbia, ha letto un verso in Corinzi dove c'è scritto che queste cose succedono affinché noi possiamo non dipendere da noi stessi. But we rely on the God who raises the dead. Ma che possiamo dipendere dal Dio che ha resuscitato i morti. He has delivered us. E quindi lui ci ha lasciato. He is delivering us. He is presently delivering us. He is doing it right now. E quindi lui ci ha liberato, lui continua a liberarci adesso. And he will deliver us as we put our trust in him. E lui, quando poniamo la nostra fiducia in lui, in Dio, continuerà a liberarci. And somehow we just had a peace came to us at that moment. E in quel momento, in un qualche modo, noi siamo stati riempiti di pace. Abbiamo sentito pace. They sent him for one last scan before they would operate. Quindi prima dell'operazione hanno fatto un'altra radiografia. We waited all day for him to be called. E abbiamo aspettato quasi tutto il giorno affinché insomma arrivasse il momento per il suo turno per l'operazione. And the next morning the surgeon came into the room. E il giorno dopo il chirurgo è venuto nella stanza. And he said, "Paul, your spine has moved. We don't need to operate." E ha detto, "Paul, la spina dorsale si è raddrizzata e non abbiamo più bisogno di operarti." So there were we could look at the facts. His quindi, vertebrae were broken. Quindi noi potevamo guardare ai fatti. Il collo, l'osso del collo si era rotto. But God said, "I'm going to deliver you." Ma Dio ci aveva detto, "Io ti libererò." So when you are faced with difficulties, look at the facts. Be practical. Quindi quando affronti una situazione difficile, certo guarda i fatti, sii pratico. But ask God to give you the truth of how he sees the situation. Ma chiedi a Dio di darti la verità di come lui vede la situazione. I think there's a lady there and have you got a leather jacket on, a tan jacket? Sì, te con la third row. Giacca di pelle, yep. Terza fila. No, the one with the brown jacket. Okay. This sì. One? Yeah. Sì. Yeah. I just really feel this thing about looking at the facts but holding on to God's truth is for you. E sento proprio che questo principio di guardare i fatti ma di credere nella verità di Dio abbia particolare valenza per te. I feel like the Lord is saying, if you will take your eyes off the circumstances. Sento che Dio ti dice che devi destare lo sguardo dalle circostanze. The Bible says, don't fix your eyes on what you can see. Perché la Bibbia dice non fissare il tuo sguardo sulle cose che puoi vedere. But fix your eyes on what you can't see. Ma fissa il tuo sguardo su quello che non puoi vedere. I feel like the Lord has got his hands on either side of your face and he's looking right into your face. Sento proprio che Dio è come se avesse le sue mani sulla sua faccia e ti stia guardando proprio dritta negli occhi. And he says, just keep looking at me. E dice, guarda me. I am in control. Perché io sono al controllo di tutto. You do not need to be afraid. Tu non hai bisogno di avere paura. If you look at the circumstances, fear will rise up in your heart. Guardando le circostanze è chiaro che cresce la paura dentro di te. But if you look at me, you will know that you're going to be safe. Ma Dio dice, se guardi me, tu saprai di essere al sicuro. There is a battle going on. C'è una battaglia che sta succedendo. That you can't see. Che tu non puoi vedere. But God says, I am fighting for you. Ma Dio dice, io sto combattendo per te. And so for all of us, it's okay to look at the facts. E quindi per tutto il resto, per tutti noi, è giusto guardare ai fatti. But it's important that we hold on to the truth of what God says to us. Ma è importante che manteniamo e facciamo nostra la verità che Dio ha. And then finally, if we are to be giant slayers, we need to be secure in who we are. In conclusione, se vogliamo essere coloro che uccidono i propri giganti, dobbiamo essere sicuri di chi noi siamo. When you read the story of Saul, King Saul, quando tu leggi la storia del re Saul, and you read the story of David who becomes King David, e poi leggi la storia di Davide che diventa il re Davide, the difference between the two kings is an issue of security. La differenza tra i due re e ha a che vedere con l'insicurezza. Saul always presents as someone who was very insecure. Saul lo vediamo sempre come una persona insicura. But even in this chapter we see a secure young man. Ma anche in questo capitolo noi invece vediamo Davide come un ragazzo sicuro di sé. He was secure in who God was. Lui era sicuro di chi Dio era. But he was secure in who God had created him to be. Ma era anche sicuro di chi Dio l'aveva creato ad essere, di chi lui era in Dio. He wasn't even intimidated by his older brother. Non era stato neanche intimidito dal fratello maggiore. It says after his brother said these harsh things about him. Dopo che il fratello maggiore gli aveva detto queste cose così dure, that David just turned round and spoke to somebody else about it. C'è scritto che Davide non se ne è curato, si è girato e ha cominciato a parlare con qualcun altro. He was secure in who he was. Lui era sicuro. And we'll not take time to read it, but in the chapter we read about him trying on Saul's armor. E non abbiamo il tempo di leggere, però la sappiamo la storia. Ad un certo punto Davide si indossa l'armatura del re Saul. And it's a bit like a comedy. A comedy? Ed è something funny. Ed è buffo, un qualcosa di buffo. He puts on this heavy armor. Lo possiamo immaginare con questa armatura pesante. And he's walking around in this armor. E lui che incomincia a camminare in questa armatura. And he goes, I can't go and fight a giant wearing this stuff. E dice, non posso andare a combattere il gigante indossando tutto questo. That's not who I am. Perché questo non è chi io sono. I know how to use a simple sling and stones. Io so bene come usare la fionda e le pietre. So I'm going to use what I know I can use. E quindi io userò quello che so di saper usare. I'm not going to go out in Saul's armor. E quindi non andrò a combattere con questa armatura di Saul. As I look out at so many of you younger people tonight. Ci sono così tanti di noi giovani ragazzi. Do not be tempted to go out in Saul's armor. Non essere tentato dall'indossare l'armatura di Saul. Be who God created you to be. Ma sì, colui che Dio ti ha creato ad essere. He has made you unique, he has gifted you. Lui ti ha creato in maniera unica, lui ti ha dato dei doni. You do not need to try to be anybody else. E quindi non hai bisogno di provare ad essere nessun altro. God wants us to bring down the giant of insecurity in our lives. Perché Dio vuole che noi sconfiggiamo i giganti dell'insicurezza nella nostra vita. So that we can be set free to serve him. Così che possiamo essere liberi di servirlo. It's always hard for me to pick someone out, but you've got your fist up to your nose, your hand right at this minute, and you're Mario, I think you have a gray sweater on. Yep. Mario. I really feel that the Lord is saying, do not go out in Saul's armor. E io proprio sento che Dio ti sta dicendo non indossare l'armatura di Saul. Be released to be yourself. Ma sentiti libero di essere te stesso. Sometimes you look at the gifts that God has given you and you think they're not of any great value. E molte volte vedi i doni che Dio ti ha dato e pensi che non siano poi di così tanto valore. Maybe simple, like a few stones and a sling. Forse qualcosa di semplice, qualche pietra e una fionda. God says, look what I can do when you give them to me. Ma Dio dice, guarda che cosa io farò nel momento in cui tu darai queste armi a me. He fed 5,000 people on a little bread and a little fish. Lui ha dato da mangiare a 5,000 persone con un po' di pane e qualche pesce. He says, I'm coming to empower you. E quindi io ti do tutta l'abilità, impartisco su di te tutta l'abilità. I'm coming to strengthen you. E io ti renderò più forte. You will have the power to bring down the giant in your own life, but also the giant in others. E tu avrai il potere di abbattere i tuoi giganti, ma anche i giganti per le persone che sono attorno a te. He says you can do all things through Christ who strengthens you. Lui dice tu puoi fare tutto in Cristo che ti fortifica. Let's deal with that giant of insecurity. E quindi affrontiamo questo gigante dell'insicurezza. Let's embrace who God has called us to be. Facciamo nostra, abbracciamo l'identità che Dio ci dà. Because the stories in Scripture over and over again are of people who didn't feel that they had a lot to offer. Perché nella parola di Dio ci sono storie e storie di persone che non credevano di avere tanto. But when they were just themselves, ma essendo comodi nell'essere se stessi, they achieved amazing things for the Lord. Dio hanno fatto cose meravigliose per il Signore. And so as we finish tonight, e quindi mentre ci avviamo verso la conclusione, I want you to ask the Holy Spirit, io voglio che noi chiediamo allo Spirito Santo to identify if there is a giant in your life. Di aiutarci ad identificare quali sono i giganti nella nostra vita. A giant that you need to face. Il gigante che tu hai bisogno di affrontare. Knowing who your God is. Sapendo chi è il tuo Dio. Knowing that he will strengthen you to defeat that giant in your life. Sapendo che lui ti darà la forza per sconfiggere il gigante nella tua vita. That we're just going to take a moment and ask, is there a giant? Is it a giant of fear? Is it a giant of shame? Is it a giant of self-doubt? Is it a giant of insecurity? Prendiamo un attimo e chiediamo allo Spirito Santo. C'è il gigante della paura? C'è il gigante dell'insicurezza? C'è il gigante del mettersi in dubbio? Whatever it is, it's good to face the facts. Perché qualsiasi sia il gigante, è una cosa buona guardare i fatti. But then in facing them, we are going to face the giant. Ma nell'affrontare i fatti, allora affronteremo il gigante. And we are going to say, no longer are you going to intimidate me. E noi diremo, non mi metterai più paura. I am going to embrace the truth of God's word. Perché io farò mia la verità del Signore. I am a child of God. E io sono un figlio di Dio. The Holy Spirit, the very power that raised Jesus from the dead, lives in me. Lo stesso potere che ha resuscitato Cristo dai morti vive in me. And I'm going to break your hold off my life. E quindi io spezzerò ogni legame che tu hai nella mia vita. So in a I would just want to give you a few moments to just think if you need to name the giant. E quindi vorrei che prendessimo qualche istante, ognuno per conto proprio, per identificare il nome del nostro gigante. Holy Spirit, will you move around the room? E Spirito Santo, muoviti in questa stanza. Father, would you help us recognize the giants that we're facing? Padre, aiutaci a riconoscere il gigante che dobbiamo affrontare. Would you reveal them to us right now in Jesus' name? Rivelalo a noi in questo momento nel nome di Gesù. If you know that there's a giant in your life and you know the name of that giant, se tu sai che c'è un gigante nella tua vita e tu sai come si chiama questo gigante, would you just stand where you are? Puoi alzarti in questo momento. In standing, you're saying, I am going to face down this giant in my life. E alzandoti, tu stai dichiarando che vuoi affrontare e vincere questo gigante. It is not going to have the power to control me any longer. Perché non ci sarà più lo spazio per questo gigante di controllare la tua vita. The power is not in my praying for you. E il potere, la potenza non è nelle parole della mia preghiera. The power lies in your belief that your God can defeat this giant. Ma il potere sta nel fatto che tu credi che Dio può vincere il gigante nella tua vita. So just reach out for him right now. Quindi perché non alziamo le nostre mani al cielo? Name that giant. E dai il nome a questo gigante. And we say to these giants, e noi diciamo a questi giganti, you have no power or authority in my life. Voi non avete nessun potere e nessuna autorità nella mia vita. I am a child of the King of Kings and Lord of Lords. Perché io sono figlio del Re dei Re, del Signore dei Signori. He fights by my side. E lui combatte accanto a me. And so I speak to this giant in my life right now. E quindi io dico in questo momento al gigante nella mia vita. You will no longer intimidate me. Che tu non mi farai più paura. You will no longer silence me with your threats. Che tu non mi zittirai mai con le tue mai più con le tue minacce. Right now I am released from you in Jesus' name. E in questo momento nel nome di Gesù io sono libero. Not only am I going to bring down the giant in my own life. E non solo sconfiggerò i giganti nella mia vita. But tonight, Lord, I commit myself. Ma io questa sera prendo l'impegno, Signore, to be a giant slayer on behalf of others. Di essere colui che uccide i giganti anche per gli altri. We are going to see the prisoners set free. Noi vedremo i prigionieri essere liberi. We are going to see the oppressed released. E coloro che sono oppressi trovare libertà. We are going to see your restoration and your renewal. Noi vedremo la tua restaurazione e il tuo fare una cosa nuova. Because Lord, we are part of the army of the living God. Perché noi facciamo parte dell'esercito del Dio vivente. In Jesus' name. Nel nome di Gesù. Amen. Amen.